della neve, con lei il tuo sorriso lieve, la legna brucia nel cammino e tu non sei più qui vicino. È passato il treno e sei salita, sparita di colpo, vita finita. Inutile cercarti, non ci sei, anche se sai che ti vorrei. Ogni cosa ha il suo tempo, ma no, non era il momento. Te ne sei andata troppo presto ed ora fuori è buio pesto. Cerco di non pensare a te, ma riesco solo a dire che sei l'unica cosa che vorrei, vorrei, vorrei e ancora vorrei. Dimmi dove sei e con chi stai, ti cerco ogni singolo giorno. Dimmi che tornerai da me, io ti aspetto qui, spero tornerai. Guardo il cielo, le nuvole grigie, ti rivedo lì con le valigie, pronta a uscire dalla stanza, e il mio no non ha importanza. Un tuo sorriso impresso e vorrei vederlo spesso, darei tutto quel che ho per tenerti ancora un po'. Ho camminato senza sosta, ma la direzione era opposta. Poi è arrivata la primavera, sei apparsa ogni sera. In ogni fiore che ho raccolto ho rivisto il tuo volto, risento la tua voce delicata, ricordo quando te ne sei andata. Dimmi dove sei e con chi stai, ti cerco ogni singolo giorno. Dimmi che tornerai da me, io ti aspetto qui, spero tornerai. Vorrei dirti quanto ti amo e tenerti stretta per mano, starti vicino quando piangi, quando non bevi e non mangi. Vorrei regalarti quella gioia che tu sapesti donare a me, darei tutto l'oro del mondo per riviverti un secondo. Ma allora si avvicina, si sta facendo mattina, affondo in questo abisso e mentre vado giù ti fisso. Ti guardo per l'ultima volta prima che si chiuda la porta. È stato bello, è stato breve, un lieve dolore al petto. Dimmi dove sei e con chi stai, ti